nel senso che la qualificazione di un'azione o di una pluralità di azioni come terroristiche non è frutto di un giudizio di valore assoluto, ma relativo. In altri termini, un dato comportamento che è valutato come terroristico dai suoi destinatari riceve invece una ben diversa qualificazione dei suoi attori. Non un sassi indietro tour 2014, concerto benefit per i compagni e le compagne Notav arrestati il 9 dicembre. Serata benefit per i prigionieri e le prigioniere Notav, Chiara, Niccolò, Claudio e Mattia, tenuti in un regime speciale di isolamento con la sproporzionata accusa di terrorismo e per questo reclusi dallo scorso 9 dicembre, colpevoli di difendere la nostra terra contro un'opera imposta, utile e devastante, dove l'unico terrorista è lo Stato. Libertà per i Notav, libertà per Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia. Flaccaggio hardcore, Robophobic, Nade, Catmosh. Flaccaggio hardcore, Obophobic, Nade, Kate Mosh. Centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, via Federico Delfino, 100 celle, Roma. Ore 22, ingresso a sottoscrizione.